Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Tra Londra e Berlino, senza perdere di vista Strasburgo. Gioca su questi tre assi la nostra puntata odierna, che inizierà con la storia di un giovanissimo professionista italiano che, pensate, si sta facendo le ossa addirittura al Ministero del Tesoro britannico e in piena Brexit. Quante opportunità avrebbe di fare la stessa cosa da cittadino italiano a Roma? Ci porremo inevitabilmente la fatidica domanda. Più tardi vi porteremo anche in Germania per raccontarvi una testata giornalistica online che parla anche della nostra emigrazione giovane a Berlino. E come sempre non perdete di vista l'iniziativa Giovani Talenti in Europa. Mandateci il vostro racconto e viaggiate fino a Strasburgo. Giovani Talenti. La frase della settimana è copyright di Luca Maestri, Chief Financial Officer di Apple. Il prossimo Steve Jobs può essere italiano, dice Maestri, che invita i giovani a puntare sui loro punti di forza e non sulle loro debolezze, a inseguire le loro passioni e ad abbandonare quel senso di rassegnazione tipico degli italiani. Siamo dunque un popolo di rassegnati? E chi non si rassegna emigra? Oppure resta? A voi la risposta, giovanitalenti@radio24.it. Paradossi d'Italia, con i bonus e compensi guadagnati nell'ultimo anno da 24 grandi banchieri per un totale di quasi 60 milioni, e tra questi ci sono pure i responsabili di alcuni dei maggiori dissesti finanziari del nostro paese, si sarebbero potuti assumere in banca 2.292 giovani. Vale la pena ricordare che un neo assunto percepisce 1.900 euro lordi. A denunciarlo Lando Maria Sileoni, segretario generale di Fabi, il sindacato dei bancari. Beh, che dire, c'è davvero qualcosa che non funziona, eh? Voi che ne pensate? Noi intanto abbiamo scovato un giovane talento italiano all'interno di uno dei ministeri chiave del regno di Sua Maestà. La differenza fondamentale è che già dopo la triennale a Londra soprattutto si possono trovare degli ottimi lavori che ti danno responsabilità. Andrea Zorzetto, 22 anni, è policy advisor presso il Tesoro britannico. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio a notiziario. Gli italiani sono i cittadini europei più propensi all'idea di andare a lavorare all'estero, l'88% si dichiara pronto a varcare i confini per trovare impiego, il 30% ambisce al lavoro in Germania, anche se uno su tre ha problemi con le lingue. È il quadro che emerge dalla ricerca La forza di lavoro in Europa 2017, pubblicato da ADP. Dopo di noi, tra gli aspiranti migranti, polacchi e spagnoli. Germania in testa alla lista dei desideri, seguita da Gran Bretagna, Svizzera, Spagna e Francia. Se guardiamo invece all'attrattività dell'Italia, ci troviamo al 13° posto dei desideri dei tedeschi, al 5° degli inglesi, al 6° degli svizzeri, al 5° degli spagnoli e al 6° dei francesi. L'anno scorso sono cresciuti gli occupati tra i giovani, afferma l'Istat. Grazie alla crescita nei primi due trimestri dell'anno aumentano i 15-34 anni con un lavoro, 44.000. Il tasso di disoccupazione si riduce soprattutto per i più giovani, mentre il calo del tasso di inattività è maggiore per gli over 50. Sono 11 i ricercatori italiani premiati lo scorso anno dal Consiglio Europeo della Ricerca con un finanziamento di 150.000 euro per sviluppare le loro scoperte. Numeri purtroppo non esaltanti, siamo arrivati dietro a tedeschi, inglesi, francesi e spagnoli, conquistando meno del 10% dei finanziamenti, lo riporta il Sole 24 Ore Scuola. Più in generale, l'Italia vivacchia a metà classifica tra i paesi europei per la capacità di aggiudicarsi i fondi dello European Research Council. In 10 anni sono arrivati nella penisola 608 milioni, prima università con 25 studi finanziati la Bocconi, e sono ben 313 i nostri ricercatori che hanno ottenuto i finanziamenti ma che hanno scelto di lavorare all'estero. Il rettore della Bocconi, Gianmario Verona, al microfono di Maria Peraceci. Storicamente gli atenei anglosassoni e molti degli atenei europei di spicco hanno da anni abbracciato questo modello in cui la didattica è importante, ma è fondamentale anche la ricerca, e premiano questa parte. Alcuni dei nostri ricercatori migliori, probabilmente frustrati dal fatto che in alcune università si fa più fatica a premiare la ricerca, vanno all'estero. Questo è un aspetto su cui possiamo migliorare molto. Partirà lunedì prossimo la nuova edizione di Young Talents in Action, il progetto di orientamento e formazione realizzato da Manpower Group, che punta a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani laureandi o neolaureati e inattivi. Info su manpowergroup.it. Venite in Nuova Zelanda con spese di viaggio e soggiorno pagate, qui troverete un ottimo lavoro e un'ottima qualità della vita. Questo è l'invito diffuso via internet dalle autorità della capitale neozelandese Wellington e da importanti imprese locali. Invito rivolto agli esperti high-tech mondiali. 100 gli impieghi offerti, tutte le info su wellingtonnz.com. Affrettatevi perché c'è tempo solo fino a dopodomani. E prosegue l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino al 13 maggio e che da questa edizione vi chiede di raccontare la vostra Europa. Nelle prossime settimane sceglieremo 3 di voi per un viaggio a Strasburgo. Per partecipare dovrete avere tra i 18 e i 35 anni. e dovrete inviare da adesso fino alla mezzanotte di venerdì prossimo una email a concorsoeuropa@radio24.it contenente un racconto di massimo 1500 caratteri, spazi inclusi. Raccontateci l'Europa che avete vissuto o che intendete vivere. Inviateci i vostri personali racconti sulle esperienze di studio, stage o lavoro nel vecchio continente. Raccontateci quanto vi hanno fatto crescere, quanto avete imparato, quanto avete potuto allargare i vostri orizzonti. E se invece dovete ancora fare esperienze di questo tipo, beh, allora raccontateci come ve li immaginate un periodo di studio o lavoro in Europa e perché, soprattutto, vorreste farlo. Inviateci le vostre proposte con i dati di contatto a concorsoeuropa@radio24.it e rilanciate l'iniziativa su Twitter con l'hashtag GiovaniTalentiUE. Attenzione, potete scriverci solo fino alla mezzanotte di venerdì e nell'oggetto non dimenticate di scrivere la parola chiave imprescindibile per poter partecipare. Quella di questa settimana è Europa 7. Ripeto, Europa 7. I tre racconti giudicati migliori si aggiudicheranno altrettanti viaggi studio al Parlamento Europeo di Strasburgo a ottobre. Vi ricordo ancora la casella email concorsoeuropa@radio24.it. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su www.radio24.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Gran Bretagna. Brexit o non Brexit, è ancora molto facile trovare giovani italiani in posizioni di responsabilità, oltre manica, persino, chi l'avrebbe detto, nell'amministrazione pubblica. Nome? Andrea. Cognome? Giorgetto. Età? 22 anni. Città di origine? Casale Monferrato, Piemonte. Studi? Economia e scienze politiche. Anno in cui hai lasciato l'Italia? 2013, dopo maturità. Per andare dove? Regno Unito, Londra. Perché? Studiare. Quale lavoro svolge attualmente? Consigliere di politiche per il Ministero del Tesoro. Dove? A Londra. Tornerai? Sì, di sicuro. Mind the gap. Please leave the train. Please note that this train will not stop at the next station. Thank you for traveling on the Central Line. In Italia i giovani sono davvero tagliati fuori rispetto agli altri paesi. L'amministrazione pubblica dovrebbe iniziare a dare il buon esempio assumendo attraverso procedure pratiche, moderne, giovani competenti, affidando loro responsabilità. Andrea, così hai scritto a giovanitalenti@radio24.it. Quali logiche separano in termini di meritocrazia e valorizzazione giovani l'Italia dal resto d'Europa? Il Regno Unito è più avanti non solo rispetto all'Italia e altri paesi europei, però la differenza fondamentale è che già dopo la triennale a Londra soprattutto si possono trovare degli ottimi lavori che ti danno responsabilità. Su questi temi torniamo a breve. Prima però la tua storia: piemontese di origine, al liceo studi tedesco, così l'inglese lo devi imparare in Australia nei 5 mesi di scambio in quarta superiore. Quella australiana fu un'esperienza che segnò la tua vita? E se sì, come? Sì, sicuramente. Chiaramente stare da solo all'estero a 17 anni ti fa crescere molto, ma mi ha anche aperto molto gli orizzonti. Ho incominciato a pensare a viaggiare e vivere all'estero. La cosa curiosa è che dopo la maturità decidi di proseguire gli studi universitari all'estero e ti chiedo subito, perché scegli di studiare proprio a Londra e in cosa? Ma ho scelto di studiare economia e scienze politiche e questa era una delle ragioni per venire all'estero, il fatto di poter fare entrambe le facoltà. E volevo studiare in inglese, mi piace vedere il mondo e volevo vivere in una città che ti dà tante opportunità come Londra. Andrea, cosa ti ha colpito di più del metodo di insegnamento britannico, ma soprattutto consiglieresti a un giovane maturando di iscriversi oltre manica? Diciamo che sono molto pratici, diciamo che se in Italia sono troppo teorici, qua forse sono dalla parte opposta, ma lo consiglierei, dipende un po' anche dalle facoltà secondo me, perché dal punto di vista dell'insegnamento in Italia non è che siamo indietro, è più il fatto di trovare lavoro dopo e le opportunità che ci sono. Chiaro, assolutamente chiaro. E infatti nel corso già del periodo in Ateneo hai modo di fare un periodo di studio a Hong Kong, fare stage tra ministeri, Parlamento, britannici. Che ambienti di lavoro hai trovato nelle istituzioni governative oltre manica? Ma devo dire che sicuramente molto accogliente, non mi hanno mai fatto pesare il fatto di essere straniero e sì, come ho detto, ti danno responsabilità e ti aiutano molto a crescere. Tu non sei rimasto con le mani in mano perché hai lavorato come insegnante privato per mantenerti, hai fatto volontariato e grazie a delle borse di studio hai partecipato a forum in ben 8 paesi. Quando si è trattato di cercare lavoro, hai guardato ancora a Londra. L'Italia, insomma, non l'hai mai considerata veramente attrattiva in termini di carriera? Ma come dicevo prima, penso di tornare in Italia più avanti, quindi per adesso voglio girare e stare all'estero, ma oltre a quello, con solo una triennale fuori da Londra è difficile trovare bei lavori, non solo in Italia ma anche in altri paesi europei. Ci racconti come funziona la selezione per i posti pubblici in Gran Bretagna, nel tuo caso da policy advisor, quale sei ora, e quali differenze ci sono con i nostri famosi o famigerati concorsi pubblici? Qua è molto molto semplice, la procedura dura un annetto, ma alla fine consiste in una domanda online e poi delle prove molto pratiche di persona, quindi colloqui, fare una presentazione, lavorare in gruppo, mentre da noi la maggior parte dei concorsi per l'amministrazione pubblica, ma anche per esempio diplomatici, sono prove molto teoriche. Esatto. Il tuo lavoro in cosa consiste? Ce lo spieghi in modo pratico. Certo, io faccio due cose, un progetto molto pratico che è l'introduzione di una nuova moneta. Qui già dopo 2 settimane mi mandavano a rappresentare da solo il tesoro, queste riunioni con gente esterna che fa questo lavoro da tanto tempo, tesoro molto giovane quindi come mentalità. E poi l'altra cosa, guardiamo cosa succede nei mercati, come rispondono agli eventi politici ed economici. E per esempio ho fatto una presentazione la scorsa settimana, tra cui c'erano anche molte persone più anziane, diciamo, tra cui il capo economista. Insomma, hai riassunto molto bene un ambiente di lavoro ben diverso al nostro. Ricordiamo, lavori al tesoro britannico. Fin dall'inizio mi sono state date responsabilità importanti, l'ambiente giovane e dinamico, riassumi tutto il contrario di quanto qualcuno si aspetterebbe di trovare in un'amministrazione pubblica. Allora ti chiedo, è solo una questione di mentalità diversa o è il frutto della capacità di ricerca e selezione dei migliori talenti? Questa è una domanda molto interessante. Diciamo che la mentalità è sicuramente diversa e tra l'altro qua il Ministero del Tesoro ha una mentalità addirittura migliore rispetto agli altri ministeri. Ma oltre a questo, sì, diciamo che loro mettono tanta enfasi a cercare talenti. Il problema è che molti lavorando al tesoro potrebbero lavorare nella City e guadagnare il triplo, quindi per compensare diciamo che danno molte responsabilità e ti danno dei lavori interessanti. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com. Vi presento Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Andrea Zorzetto, 22enne policy advisor al Tesoro britannico. Andrea ha scelto subito la Gran Bretagna per i suoi studi universitari, arrivando a ricoprire, pur giovanissimo, una posizione di spicco all'interno dell'amministrazione pubblica anglosassone. Brexit o non Brexit, il divario con l'Italia in termini di opportunità appare ancora troppo ampio. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Andrea, non possiamo ignorare la spada di Damocle della Brexit. Quanto ha cambiato i tuoi piani futuri? Ma io pensavo già di andarmene già prima, perché mi piacerebbe vedere altri paesi tipo Francia e Germania, però sicuramente è un motivo in più per pensare di andarmene. E come ha cambiato anche la vita degli italiani, la Brexit e degli europei che frequenti a Londra? Si profila un controesodo verso l'Europa? Ma io l'anno scorso vivevo con conquilini francesi e spagnoli, stiamo tutti pensando di andarcene, chiaramente anche al tesoro, diciamo, gente che ha dei lavori abbastanza belli e che quindi probabilmente avrà la possibilità di rimanere, la paura di non essere trattati più come prima c'è, anche se al chiaro tesoro continuano a non farci pesare il fatto di essere stranieri. E in tutta onestà, consiglieresti a un giovane italiano di venire a cercare lavoro o opportunità adesso in Gran Bretagna? Diciamo che se ci tiene si può fare, anzi meglio adesso, è ancora in tempo di farlo, però chiaro consiglierei di guardare anche ad altri paesi. E la nostra domanda di rito, Andrea, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. Diciamo che non è che l'Italia sia messa così male, anche l'Inghilterra e altri paesi hanno tanti problemi, però quando si tratta di giovani sicuramente siamo molto indietro. E quindi se dovessi fare una proposta, mi piacerebbe che amministrazione pubblica, università e centri di ricerca e anche le grandi imprese, magari dove quelle partecipazioni statali, assumessero tanti giovani sotto i 25 anni e gli dessero responsabilità dei programmi e obiettivi precisi. Ci raggiunge ora in linea Guido Medis, docente all'Università La Sapienza ed esperto di amministrazione pubblica. Buon pomeriggio. Buongiorno. Professor Medis, lei conosce bene la nostra amministrazione pubblica. Le faccio una domanda banale nella sua semplicità. Perché culturalmente non riusciamo a organizzare processi di reclutamento efficaci in grado di scovare talenti reali, superando una volta per tutte le logiche dei concorsi per la nostra amministrazione, nei quali non è detto poi che a vincere sia effettivamente il migliore? Perché siamo molto legati a un sistema di regole apparentemente legaliste, in realtà fortemente burocratizzate, che ci impediscono di fare quello che è stato fatto nel caso di Andrea: un colloquio, l'accertamento di competenze che servono a quel pezzo di amministrazione, la messa in prova e la rapida assunzione. Questo in Italia non si può fare, perché purtroppo scatta il problema che bisogna fare quelli dei concorsi di massa, che durano moltissimo, dopodiché inizia un periodo di apprendistato in cui raramente si ottiene una una rapida via di ascesa all'interno dell'apparato in cui si viene inseriti. Si comincia a sostare e questo naturalmente scoraggia tutti coloro che si avvicinano da giovani all'amministrazione. In più la nostra è un'amministrazione molto vecchia, è una delle più vecchie d'Europa. Sappiamo, abbiamo sì. Una dirigenza che ha 54 anni di media, bisognerebbe fare una politica di ringiovanimento più energica. Massiccia. Lei è preoccupato da quelle che definisce proporzioni allarmanti dell'emigrazione intellettuale italiana e cita un caso che ha colpito anche me, quello del sostanziale fallimento dell'iniziativa Master and Back della regione Sardegna. L'idea era effettivamente buona, mandare all'estero i giovani, farli formare fuori e poi riportarli in regione. Cosa non ha funzionato? Non ha funzionato il back, perché naturalmente questi ragazzi sono partiti pieni di entusiasmo, con delle borse abbastanza possibili che hanno consentito l'inserimento in contesti di lavoro o di studio stranieri. Dopodiché, quando c'è stato il problema, come diceva la legge istitutiva che è stata voluta da Renato Soru, che allora era governatore della Sardegna, di inserire questi ragazzi dentro l'apparato produttivo sardo, l'offerta di lavoro è stata minima e comunque non ha avuto lo stesso appeal che avevano invece, e quindi molti di questi sono rimasti fuori. E questo è veramente triste, se vogliamo. Raccomandazione endemica, femminismo, clientelismo. Lei li cita come mali che deprimono l'offerta di lavoro. Li denunciamo da anni, sono però ancora lì, gattopardescamente. Dobbiamo, le chiedo, rassegnarci al fatto che questo è un paese che non cambierà mai, dove il predestinato e il privilegiato avrà sempre una corsia preferenziale rispetto al giovane talento venuto dal nulla? Beh, ci vuole una volontà politica e forse anche una spinta dell'opinione pubblica maggiore di quella che c'è adesso. Io penso che se noi facessimo tre cose rapide. Primo, accorciare il percorso della laurea, che da noi è uno dei più lunghi d'Europa. Noi facciamo 5 anni per laurearci, poi cominciano i corsi di preparazione, se si devono fare i concorsi, poniamo quello per magistrato, occorrono almeno altri 3 anni per diventare magistrato. Sa che noi abbiamo i magistrati, entrano i magistrati più anziani d'Europa, hanno 30-35 anni, i nostri, gli altri sì. Entrano, non dico all'età di Andrea, ma molto prima. Questo vale per tutte le categorie, quindi accorciare il percorso di entrata, poi studi meno teorici, prove meno teoriche per selezionare, più pratica, più prove sull'agilità mentale, che è la materia fondamentale per chi deve inserirsi nel mondo del lavoro e della produzione. E poi ancora le lingue, perché l'inglese ancora non è conosciuto a livello di massa come noi crediamo e diciamo, e forse un'altra lingua come Andrea, che conosce il tedesco, non sarebbe male, perché aiuta. Siamo un paese conservatore, conclude lei amaro nella lettera che ci ha inviato. Possono, le chiedo, giovani come Andrea ribaltare lo status quo immettendo germi positivi di innovazione nella cultura del nostro paese, o sono ancora troppo pochi, perché poi la maggioranza degli expats alla fine ha scelto di tagliare i ponti con l'Italia? Abbiamo avuto un'emorragia notevole, anche questo fa parte della nostra stagnazione attuale, abbiamo perso una generazione. Leggevo che nel 2015 se ne sono andati 51.000 tra laureati e diplomati, solo nel 2015. Ed è una stima conservativa. Eh sì, insomma, probabilmente anche di più, perché poi queste stime sono sempre basate su una certa approssimazione. Quindi la prima cosa da fare sarebbe forse di metterli in relazione questi ragazzi tra di loro e di farli interagire in qualche modo sul contesto nazionale. E qui può fare molto la politica, se la politica guarda finalmente al futuro e non soltanto si guarda i piedi e pensa alle cose dell'oggi. Grazie professor Guido Melis. E domanda diritto ad Andrea Zorzetto: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Gli direi due cose. Diciamo che se pensa di andare all'estero per seguire la sua passione, lo incoraggio molto, di pensarci molto bene, perché vedo tanti che vengono magari a Londra a fare il cameriere, che non hanno la fortuna di avere lavori migliori ed è comunque molto duro anche qua. Però di pensare da subito a come puoi tornare in Italia, perché la voglia lì verrà. E l'altra cosa che vorrei dirgli è di non arrendersi, perché se noi giovani che speriamo di creare un'Italia migliore e crediamo nel futuro ci arrendiamo, allora poi non la cambia nessuno l'Italia. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un capo amministrativo allo European Molecular Biology Laboratory di Inkston, Gran Bretagna, scadenza per CV 26 marzo, candidatura a embl.org/jobs. Un direttore scientifico al CIC Energigune nei Paesi Baschi, scadenza per CV 23 marzo, info su cicenergigune.com. E infine un fisico nucleare all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Vienna, scadenza per CV 24 marzo, info su iaea.org. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Come viene raccontata la nuova emigrazione professionale italiana in una delle sue città simbolo, la capitale tedesca Berlino? Ce lo spiega Andrea Daddio, direttore del sito di informazione online Berlino Magazine. Berlino Latino Magazine nasce nel marzo del 2014 sulle, diciamo tra virgolette, ceneri di un mio blog che si chiamava Berlino Cacio e Pepe. Nasce per diventare un punto di riferimento della comunità italiana in Germania, ma ancor più, almeno vedendo i dati, degli italiani appassionati di Germania che si informano sulla Germania dall'Italia. Parlavi di tutoraggio, cioè di aiuto a chi vuole venire a lavorare a Berlino. Quali sono i principali consigli che dai? Prima di tutto di venire con le idee chiare e di venire con dei soldi da parte, perché non è facile iniziare. Studiare, se è possibile, già il tedesco un po', stando in Italia. E non abbattersi, perché possono esserci anche 6 e più 7, 8 mesi di nulla prima di trovare il lavoro giusto. La cosa che a Berlino, diciamo, funziona rispetto all'Italia è che una volta uno trova un lavoro, è un lavoro regolare con contributi, pagato il giusto, c'è cioè un salario orario minimo di 8 euro e mezzo l'ora in Germania, che è applicabile a tutti i lavori e che quindi offre delle garanzie che purtroppo non ritroviamo più in Italia. Come descriveresti la comunità italiana a Berlino? È giovane? Che tipo di lavori fa? Come si sta organizzando? Penso che ormai Berlino abbia un'enclave italiana così ampia e numerosa che ci ritroviamo tutti gli italiani in scala che si ritrovano in Italia stessa, quindi c'è il giovane, ormai c'è la famiglia, cioè persone che si trasferiscono qua con i figli e si rimettono sul mercato del lavoro, ci sono i freelancer, ma c'è anche una grossa comunità di persone che lavorano nella gastronomia, cuochi, lavapiatti, veramente c'è di tutto. Berlino è una città da molti descritta come povera, insomma non è una delle città tedesche più ricche, allora quali sono i settori dove tu consigli di cercare? Difficile dire settori in particolare, se non quelli del customer care, della gastronomia, che sono quelli che bene o male raccolgono più di altri settori gli italiani. Ci sono settori che, confrontandoli con l'Italia, aprono più porte, che sono gli architetti, chi lavora nel mondo digitale. Per maggiori informazioni potete cliccare su berlinocacioepepemagazine.com. Un motivo per restare o tornare. Borse di studio per 185 giovani ricercatori selezionati tra le migliori promesse della ricerca italiana e internazionale e un portale rinnovato dedicato alla promozione della ricerca. Con queste attività la Fondazione Umberto Veronesi ha aperto il nuovo anno. Le borse di studio, afferma Chiara Tonelli, prorettore dell'Università di Milano e direttore scientifico della Fondazione, verranno erogate a fronte di oltre 700 domande per aiutare la ricerca in alcune aree tipiche. Intanto, in tempi abbastanza celeri, il MIUR ha scelto le proposte di finanziamento con i quali gli Atenei del Sud pagheranno le borse di studio per i giovani che faranno ricerca nelle imprese dei settori emergenti della manifattura 4.0 e dei big data, 311 dottorati innovativi industriali previsti. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo dunque le vostre domande, idee, proposte, riflessioni e anche le vostre denunce. Per mettervi in contatto con noi è davvero semplice, basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare in onda. Cerchiamo storie di under 40 espatriati, under 40 controesodati nella penisola dopo diversi anni all'estero, under 40 stranieri a lavoro in Italia e anche giovani studenti delle scuole superiori o universitari attualmente oltre confine. Se vi riconoscete in una di queste categorie, beh, Giovani Talenti è la vostra trasmissione. E per questo vi invitiamo a candidarvi scrivendoci a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Non dimenticate neppure di iscriverci per l'iniziativa Giovani Talenti in Europa. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.